A volte mi immagino il paradiso come un posto in cui avremo tutta l'eternità per conoscere e ringraziare tutte le persone che hanno fatto qualcosa per noi. Immaginate di poter girare lungo tutte queste strade infinite e di poter incontrare tutte le persone che hanno fatto qualcosa per voi. Immaginate lo stupore di poterle ringraziare finalmente per tutto quello che vi siete scambiate vicendevolmente. Sì, perché anche tu hai donato un sacco di cose agli altri. E allora quando incontrerai questa persona mai vista, chissà che stupore quando lei ti ringrazierà. Magari sei cuoca in una scuola materna o in un ospedale. Pensa che stupore quando tutti ti verranno incontro e ti ringrazieranno per quel piatto così buono. O magari sei infermiere o muratore. Pensa a quante persone ogni giorno beneficiano del tuo lavoro fatto bene. Mettiamo che hai scritto un articolo di giornale o un libro. Quante persone hanno letto quel libro e ne hanno trovato ispirazione, forza? E allo stesso modo tu potrai incontrare i professori, gli insegnanti, perché no, magari anche i sacerdoti, o magari anche persone comuni che comunque hanno fatto qualcosa per te. Incontrerai anche quell'agricoltore che ha seminato quel grano, che ha poi raccolto le spighe dalle quali è venuto non soltanto il pane, ma anche la focaccia. So bene che si tratta di un esercizio di immaginazione e che poco o nulla sappiamo di quello che accadrà nell'aldilà. Ma una cosa la sappiamo, la dice San Paolo, la carità non avrà mai fine. E quando c'è la carità, quando c'è l'amore, c'è la gratitudine. E c'è la gratitudine verso Dio che ha permesso che la nostra vita potesse essere bisognosa e che tutti noi siamo interdipendenti gli uni dagli altri. La spiritualità cristiana da sempre invita ad una pratica serale, l'esame di coscienza. Cioè provare a pensare alla giornata e chiederci che cosa abbiamo fatto di buono, ma anche che cosa abbiamo fatto di sbagliato, per poter migliorare. Ma perché limitarci soltanto a quello che abbiamo fatto di sbagliato? Perché l'esame di coscienza non possiamo farlo diventare qualche volta, anzi sempre, un bilancio di come la vita si è comportata con noi? Non solo di quello che noi abbiamo fatto, ma anche di quello che abbiamo ricevuto. Questo bilancio quotidiano ci aiuterebbe sicuramente a sviluppare la gratitudine. Quale impatto ha avuto la vita su di te? Che cosa ti ha donato? Prova ad esserne un po' più consapevole. E poi ringrazia e ancora ringrazia. Ringrazia Dio e ringrazia dentro di te chiunque ha fatto qualcosa di buono per te. Non sarà così possibile costruire un po' di paradiso anche adesso? Apri gli occhi e accorgiti di tutte le persone e le situazioni di cui puoi essere grato. Non perdere occasione per ringraziare tutte le persone che fanno qualcosa per te ogni giorno. Ringrazia Dio per questa meravigliosa idea che ha avuto, per tutte le persone che ti ha donato, per tutto il bene che tramite gli altri semina nella tua vita.